cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo di una scrittrice esordiente. Questo è il suo primo romanzo, si intitola Il ladro di nebbia, l'ha scritto Lavinia Petti, pubblicato da Longanesi. Lei è veramente una scrittrice giovane, lo sapete, dicono i giovani scrittori e poi hanno 45-50 anni, lei ne ha 27, quindi diciamo che è veramente una giovane scrittrice. E tra l'altro ha scritto questo romanzo, poi lei ce lo racconterà direttamente, addirittura quando ne aveva 17. Insomma, quindi, come dire, una bella promessa della letteratura italiana. Possiamo sicuramente dirlo. Il ladro di nebbia è un romanzo difficile da identificare per quanto riguarda il genere, perché per un po' è fantastico, c'è anche una punta di giallo, è anche un romanzo anche un po' filosofico che riflette sul senso del passato, del ricordo e così via. Eppure, ripeto, l'ha scritto una 27enne, Lavinia Petti. Lavinia, allora, partiamo un po' dal protagonista di questo romanzo, così diamo ai nostri ascoltatori un po', come dire, le coordinate GPS per orientarsi all'interno del tuo romanzo, senza naturalmente svelare troppo. Il protagonista, Antonio M. Fonte, è uno scrittore, vive a Napoli. Parlaci un po' di lui. Antonio è una specie di mio alter ego, perché è imbranato come me, è uno scrittore, soltanto che ha 50 anni, ho scelto un cinquantenne ed è stato facile immedesimarmi in lui, visto che è un uomo che ha perso il suo passato, ha perso i suoi ricordi, quindi è come se fosse rimasto sempre un po' ragazzo, un po' bambino, ha perso una parte della vita e ha perso la sua identità. Quindi quando parlavi appunto della mancanza di categoria di questo libro, di questo romanzo, è proprio perché mi è venuta più che altro l'idea di fare una quest, cioè una ricerca. Quest'uomo deve cercare se stesso e il suo passato. E lo fa in un modo particolare, sì, perché abbiamo detto lui è uno scrittore e anche un po' sociopatico, sì, ecco, proprio lo definiamo così, insomma, per avere i rapporti con il suo editore, naturalmente il suo agente lo stressa, hai finito il romanzo, dobbiamo consegnarlo, così vive col suo gatto, anzi con la sua gatta. La sua gatta con la quale parla, naturalmente. Un altro c'è noto biografico, perché io ho un gatto. No, tu stai toccando un argomento che in questa trasmissione sai che non si tocca mai. Io non faccio mai la domanda se il romanzo è autobiografico. E invece tu me lo dici, no, ma se lo dici tu va benissimo. No, non è per niente autobiografico il romanzo, il personaggio, diciamo. Il personaggio, no, scherzo su questa cosa, perché secondo me gli scrittori mettono sempre qualcosa di se stessi nei romanzi. Quindi la domanda se è autobiografico va da sé, insomma, la risposta, ecco, mettiamola così. Allora, scherzi a parte, dicevamo, questo è uno scrittore un po' sociopatico, sta un po' per i fatti suoi e un giorno, così camminando per i quartieri spagnoli, perché è ambientato lì a Napoli, incontra uno strano luogo, viene a conoscenza di uno strano luogo, un luogo dove ci sono non solo gli oggetti smarriti, ma anche i ricordi smarriti. Che cos'è questo posto? Questa è una specie di anticamera per un regno parallelo che si chiama Tirnail, e invece questo posto si chiama, è l'ufficio oggetti smarriti, dove appunto vengono raccolti gli oggetti smarriti, ma non solo, perché ci stanno, si perde di tutto oggigiorno, insomma, dai sogni, ricordi, speranze, illusioni, occasioni. Ho cercato a lungo tutte le cose che un uomo potesse perdere per riuscire a trasformare, a creare un'allegoria di questo in un mondo a parte, appunto. E che cosa succede in questo mondo a parte a questo scrittore, insomma, al protagonista? Come vive la realtà dello scrivere a Napoli, quartieri spagnoli, a questo mondo parallelo? È appunto un mondo parallelo che si incastra nel suo mondo, è come se fosse una specie di sogno, quando nei sogni appunto le cose ci sembrano simili eppure diverse. È proprio così, lui rivede le cose che... Lui rivede la sua storia, il suo passato. La sua storia, esatto. E ha voglia di cambiarla? Sì, ha voglia di riscoprirla più che altro, di cercare di capire perché l'ha dimenticata, perché ovviamente ci deve essere sempre un motivo quando lasciamo andare qualcosa, cioè ovviamente perdere i ricordi significa perdere se stessi, è come se non ci accettassimo per quello che siamo, per quello che siamo stati, e ci impedisce di diventare qualcos'altro o qualcun altro. Lui per questo si trova in una specie di limbo e deve inevitabilmente percorrere questa strada e fare questo viaggio assurdo proprio ai limiti del no senso. l'essence di Lewis Carroll proprio per... Non l'hai citato a caso perché tu hai fatto una tesi di laurea, sì. Su Alice nel Paese delle Meraviglie, proprio sul linguaggio. Esattamente, è stato molto divertente. Ti ha ispirato, immagino, sì, anche sì, per sì. questo... Per l'invenzione dei nomi, per quanto riguarda tutte le situazioni bizzarre, insensate nelle quali si trova. Mentre lo scrivevo ricordo proprio che mi ero prefissa questo scopo, praticamente volevo sfidare la mia immaginazione, volevo portarla ai suoi limiti estremi e vedere fino a che punto riuscissi ad arrivare. È stato interessante. È piacevole invece per i lettori. Qui è dunque la parte fantastica, mm-hmm. diciamo il fantasy, il mondo parallelo. Abbiamo detto che c'è anche un pizzico di giallo, perché Antonio riceve una serie di lettere, lui le accumula. Fra queste lettere un giorno ne riceve una con un timbro di 15 anni prima, e in realtà è una lettera che lui stesso aveva inviato a una donna di cui però non ricorda esattamente, diciamo, le circostanze e la situazione. Che cosa gli provoca l'aver letto così questa lettera di 15 anni prima? Ovviamente rimane sconvolto perché riconosce la sua scrittura, riconosce la sua firma, ma parla di cose di cui non ha la minima conoscenza proprio perché le ha perdute. E in questa lettera non parla soltanto di un grande amore, a quanto pare, mm-hmm. ma anche di un assassino. E quindi anche la punta di giallo, esatto. Ecco. Cioè lui quasi si autoaccusa di un omicidio. Esattamente. Che lui non ricorda. Mette in mezzo tante cose che non hanno senso per lui e non riesce a capire. E dopo, da lì appunto, si ritrova poi nell'ufficio oggetti smarriti per iniziare a gettare un po' di luce su quelle che sono poi le tenebre del suo passato, praticamente. Come mai una ragazza giovane, come te dicevo prima, hai buttato giù la prima stesura di questo romanzo a 17 anni e poi naturalmente nel tempo l'hai sviluppato, sì. migliorato, ampliato. Come mai hai scelto proprio il tema del ricordo del passato, del recuperare la memoria e di così questa sensazione che spesso si prova una certa età di voler rivivere il passato per cambiarlo? Io penso che siano tanti fattori, innanzitutto il mio carattere, la mia natura che è fortemente malinconica. E non si direbbe a vederti perché sei così sorridente. Lo so, me lo dicono in tanti. Ma è sempre però... così, dietro il sorriso si nasconde spesso la malinconia. Sono così, sì, sono esattamente così. Penso tantissimo al passato, riesco a vivere, a capire bene le cose che mi succedono solo quando sono diventate ricordi, quando sono passate. Perché quando ci sono troppo dentro, essendo molto emotiva, ho difficoltà a inquadrarle per bene. E poi un altro dei motivi è perché per me i ricordi sono collegati al concetto stesso di storia, cioè una storia è qualcosa che ha avuto un inizio, uno sviluppo e poi una fine. E io amo follemente le storie, ho scritto questo libro proprio per le storie, appunto, è dedicato ai miei nonni perché io da quando ero piccola amo farmi raccontare le storie, le loro storie, della loro vita, e rimanevo incantata da queste cose. Quindi... Tu sei un po' la custode, insomma, anche delle storie che ti hanno raccontato, sì, dei sì. tuoi nonni, delle persone che incontri, perché gli scrittori poi alla fine sono uno scrigno di tante cose. Esattamente così, io segno tutto, non mi appunto ogni cosa che sento e che mi colpisce, e da lì provo a ricavarne una storia, ovviamente. Molte volte mi diventa surreale, però la base è sempre la realtà, comunque. La base è la realtà, poi insomma dai spazio alla fantasia. Tra l'altro, per quanto riguarda le atmosfere di questo romanzo, si è detto che sono delle atmosfere alla Zafón, insomma lo scrittore spagnolo che scrisse L'ombra del vento, è stato un grande bestseller. Beh, immagino A, che ti faccia piacere essere paragonato a un autore di bestseller, B, però la domanda è ti ci ritrovi effettivamente? Ti sei ispirata a Zafón? L'hai letto? Sì, lo dico apertamente perché appunto come dicevi io l'ho scritto a 17 anni il libro, e nel momento stesso in cui ho iniziato a scriverlo stavo leggendo L'ombra del vento, che secondo me è un libro che ha avuto, un romanzo che ha avuto un enorme successo al di là della trama, dei personaggi, ma per lo stile di Zafón, che è uno stile che ha colpito moltissimo, queste metafore, questi paragoni che ti entravano dentro e sono entrati dentro di me e sono entrati poi anche dentro il romanzo mentre lo stavo scrivendo. Quindi sì, io lo riconosco, soprattutto i capitoli iniziali hanno proprio lo stile, l'impronta di Zafón. Non nego che lo stesso ufficio oggetti smarriti da una l'hai preso spunto, insomma. Sì, ma quando hai 17 anni tendi a, diciamo, imprimere i tuoi piedi nelle orme che ti sono davanti e che ovviamente ti lasciano un maggior segno, è inevitabile appunto.